Effetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, il Consiglio dei Ministri decreta lo stato di emergenza dopo i primi due casi di infezione in Italia. Si tratta di una coppia di turisti cinesi. In Cina le vittime sono 213. Crescita brusca frenata del PIL italiano nel quarto trimestre del 2019, secondo l'Istat è sceso dello 0,3%, peggio delle attese. Banca Popolare di Bari, arrestati l'ex presidente Jacobini e il figlio del condirettore interdetto De Bustis, le accuse falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza. All'apertura dell'anno giudiziario l'allarme del presidente della Cassazione sulla prescrizione: senza correttivi in un anno ci saranno 25.000 processi in più. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. E cominciamo con i titoli e poi a partire dalle 13:15 tutti i nostri approfondimenti. Il governo ha dichiarato poco fa lo stato di emergenza per il coronavirus in Italia. Due per ora i casi di contagio accertati nel nostro paese. Si tratta di una coppia di turisti cinesi. Rientreranno invece domenica gli italiani che si trovano in Cina e hanno chiesto di rimpatriare. Ma partiamo proprio dalle decisioni di questa mattina del Consiglio dei Ministri. Avrà una durata di 6 mesi lo stato di emergenza dichiarato stamattina dal Consiglio dei Ministri per fare fronte all'epidemia di coronavirus. Il governo ha anche stanziato 5 milioni di euro per i primi interventi. Le misure messe in atto sono di carattere precauzionale e mettono l'Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale, ha spiegato il ministro della Salute Speranza. Ieri sera, dopo la conferma dei primi 2 casi registrati nel nostro paese e dopo la dichiarazione di emergenza internazionale arrivata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esecutivo ha anche deciso di bloccare tutti i collegamenti aerei con la Cina. L'Italia è il primo paese ad adottare questa misura. Non c'è nessun motivo di allarme, la situazione è sotto controllo, ha comunque rassicurato il premier Conte. Nel frattempo si è saputo che verranno evacuati domenica con un volo speciale gli italiani bloccati da giorni a Wuhan, la città cinese dalla quale è partita l'epidemia di coronavirus. Andrea Viale, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in Cina ci sono stati 2.000 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore, le vittime sono salite a 213. La rivista scientifica Nature intanto stima che se, come potrebbe essere probabile, le stime ufficiali sottostimano, scusate il gioco di parole, i numeri reali delle persone con febbre da coronavirus, potrebbero esserci tra 40.000 e 190.000 casi a Wuhan. Intanto però, dicevamo, in Italia 2 sono i casi di febbre da coronavirus accertati. Facciamo il punto sulla situazione in Italia con Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. E dunque ufficiale, il coronavirus è arrivato anche in Italia. Per questo, come avete sentito, il Consiglio dei Ministri ha approntato tutte le necessarie misure precauzionali. La decisione è arrivata dopo che è stata dichiarata positiva ai test una coppia di turisti cinesi ora ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma. Provenienti da Wuhan, la coppia era atterrata a Milano il 23 gennaio prima di recarsi a Roma, dove sarebbe arrivata autonomamente in auto dopo una tappa intermedia a Parma. Dunque non avrebbe raggiunto la capitale con mezzi di trasporto collettivi. Fonti ufficiali parlano anche di un terzo caso sospetto a Roma. Si tratterebbe di un operaio rumeno di 42 anni che si è recato all'ospedale di Tivoli con la febbre alta, ha detto di essere stato a contatto con la coppia di cinesi positivi al coronavirus. Il direttore dell'Hotel Palatino, dove alloggiavano i turisti, ha però smentito che si tratti di un suo dipendente o di un'azienda collegata. Anche con l'operaio rumeno comunque sono scattate le procedure d'emergenza con l'isolamento e il trasferimento allo Spallanzani. Nel frattempo, l'inviato cinese all'ONU invita la comunità internazionale ad adottare un atteggiamento responsabile e a lavorare insieme per combattere il coronavirus, evitando reazioni eccessive. Per il momento è tutto. Grazie Adriana Fracchia. Adesso siamo ai dati economici. Nel quarto trimestre del 2019 il PIL italiano è sceso dello 0,3%, andando peggio delle attese. Un dato che rimbalza proprio in questi minuti alla presentazione del rapporto OCSE sul mercato dei capitali in Italia. Alla presenza tra l'altro del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, ci colleghiamo con Giorgio Stamatopoulos. Buongiorno Alessio. Nel giorno in cui l'Istat certifica una brusca frenata dell'economia italiana, con un meno 0,3% nel quarto trimestre, il calo più forte dall'inizio del 2013, arriva anche il rapporto dell'OCSE sul mercato dei capitali italiano, definito ancora gracile, incapace non solo di attrarre i grandi flussi stranieri, ma anche di arrestare una fuga del risparmio oltre confine per circa 190 miliardi. L'OCSE sottolinea che nell'ultimo decennio meno di 4 aziende all'anno si sono quotate, determinando un rapporto percentuale tra capitalizzazione di mercato e PIL nazionale nettamente inferiore a quello degli altri grandi paesi europei. Da qui alcune indicazioni contenute nel rapporto per promuovere un accesso facilitato delle aziende al capitale di lungo termine, con il rafforzamento del ruolo dei regolatori, a cominciare dalla Consob, ma soprattutto con l'auspicio di una riforma complessiva dell'accesso al mercato dei capitali, che favorirebbe, sottolinea il segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria, uno sviluppo sostenibile del potenziale italiano, che fra le grandi economie europee presenta tutt'oggi la percentuale più elevata di aziende a forte crescita. E per il momento da Roma è tutto, a te la linea. Grazie a Giorgio Stamatopoulos. Adesso parliamo della Brexit, che dalla mezzanotte di oggi diventerà un fatto concreto, anche se ci saranno mesi di trattative per stendere nella loro totale concretezza proprio tutti i punti della Brexit. Intanto oggi ha parlato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto poco fa: vogliamo il migliore partenariato possibile con il Regno Unito, ma non sarà buono come la membership, ha detto, appartenere all'Unione Europea conta. E adesso veniamo in Italia con la cronaca, perché ci sono due nuovi casi di femminicidio. Sarebbe stata uccisa dal marito la donna pakistana incinta trovata morta ieri nel suo appartamento a Versaco in Alto Adige. Dopo una notte in caserma, l'uomo, anch'esso di nazionalità pakistana, è stato fermato dai carabinieri. A suo carico ci sarebbero gravi indizi, oltre al grave e concreto pericolo di fuga. In Sicilia invece un altro duplice omicidio. A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, un giovane di 27 anni ha sparato, con l'arma regolarmente detenuta, alla ex compagna di 48 anni e alla figlia di lei di 27, uccidendole prima di togliersi a sua volta la vita. Due episodi che seguono quello avvenuto solo mercoledì sera, sempre in Sicilia. A Mazara del Vallo una donna è morta per le percosse ricevute ripetutamente dal marito. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la cronaca purtroppo registra un quinto caso di femminicidio, una notizia di proprio pochi minuti fa. Il corpo di Speranza Ponti, la signora di 50 anni, sarda, scomparsa da metà dicembre, è stato ritrovato ad Alghero, nell'area indicata dal compagno della vittima, Massimiliano Farci, di 53 anni, che ora si trova in stato di fermo. E i femminicidi sono tra l'altro una delle emergenze giudiziarie del paese. Se ne è parlato questa mattina all'apertura dell'anno giudiziario in Cassazione, dove ampio spazio ha avuto anche il tema della riforma della prescrizione. Prescrizione e migranti, due temi al centro dell'apertura dell'anno giudiziario in Cassazione. Sulla riforma che incide di fatto sulla durata dei processi, il presidente Giovanni Mammone ha spiegato: c'è il rischio presso l'alta corte di un significativo incremento del carico penale, vicino al 50%, che difficilmente potrebbe essere trattato. Quanto ai migranti, le impugnazioni in materia di protezione internazionale, prima diluite tra le corti di appello, sono affluite tutte in Cassazione, gravando oltremodo la corte di legittimità. Parole pesanti anche quelle del procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, che ha puntato il dito sull'aumento impressionante dei femminicidi e su quello che ha chiamato il mercimonio di alcuni magistrati, da queste condotte un danno incalcolabile. Affidare esclusivamente al diritto penale i valori della società, ha detto ancora Salvi, reca rischi preoccupanti. Sulla prescrizione la replica del ministro della giustizia Bonafede, che ha assicurato è in atto un confronto serrato all'interno della maggioranza per superare le divergenze e consegnare ai cittadini un processo idoneo a rispondere alle loro istanze di giustizia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo agli sviluppi dell'inchiesta sulla Popolare di Bari, con i provvedimenti della Procura nei confronti dell'ex presidente Iacobini, ma non solo. Ce ne parla Sara Monaci. Buongiorno Sara. Sì, buongiorno. Sì, oggi c'è stata una svolta. Questa mattina sono stati raggiunti dalle misure di custodia cautelare tre ex amministratori, quindi l'ex patron, il presidente Marco Jacobini, il figlio che era il condirettore, poi il responsabile della sezione bilancio Elia Cirielli e infine misure interdittive per il manager bancario Vincenzo De Bustis, già noto per essere stato ai vertici di altre banche come Banca 121, Monte dei Paschi e Deutsche Bank Italia. Quindi abbiamo una serie di richieste della Procura per i reati che vanno dalla manipolazione del mercato al falso in bilancio, al falso in prospetto, all'ostacolo alla vigilanza, che poi si sono tradotte questa mattina in queste misure cautelari. In realtà la richiesta era per 9 persone, ma il GIP ha riconosciuto soltanto la necessità di una misura cautelare per queste persone per reiterazione, da quello che leggiamo, insomma, per reiterazione, per rischio di reiterazione del reato. C'è anche spunta tra le carte l'estorsione su un ex dipendente. Non c'è ancora allo stato quella che era stata ricostruita anche da Banca Italia come una possibile truffa nei confronti dei piccoli azionisti, però si legge comunque dalle carte che ci sono state delle manipolazioni dei profili per poter vendere dei prodotti rischiosi fatti passare invece a persone ignare come prodotti invece a basso rischio e con alta redditività. Certo. Sara Monaci, ti ringrazio per il momento, direi che è tutto, naturalmente poi le pieghe dell'inchiesta saranno tutte da approfondire, lo faremo nel corso della giornata dopo su Radio 24, dopo questa svolta nelle indagini della Procura sul fallimento della Banca Popolare di Bari. Adesso un'ultima ora che arriva da Strasburgo e riguarda il tema dell'immigrazione nell'Italia. L'Italia deve sospendere con urgenza le attività di cooperazione con la Guardia Costiera Libica, almeno fino a quando quest'ultima non possa assicurare il rispetto dei diritti umani. È un'affermazione, una richiesta all'Italia del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mikatovic. Siamo in chiusura a pochi giorni dall'avvio della kermesse di Sanremo, allora la nostra Marta Cagnola ha incontrato un altro dei possibili protagonisti sul palco dell'Ariston, Rafael Gualazzi. Quello che resta del sole. Sono sempre emozionato, ma in senso molto positivo, nel senso che per me non la vivo mai come una sfida, la vivo come un arricchimento, come un momento di gioia, insomma, di esternazione di quelle che sono tutti i tuoi pensieri musicali e artistici. Perché questo brano e con che spirito? Innanzitutto la musica insomma, è molto importante, l'aspetto musicale, l'aspetto del divertissement, l'aspetto quindi ritmico del ballo, del groove, e allo stesso tempo è una commistione, perché una carioca è una commistione tra musica cubana, latinoamericana e sonorità urban, quindi come avviene spesso nel disco ci sono delle esperienze di commistione tra linguaggi più moderni, più up to date e linguaggi più tradizionali, dove anche la strumentalità del pianoforte può prendere vita, proprio perché l'album si chiama Ho un piano, che significa ho un piano come progetto, ma ho anche uno strumento che è il pianoforte, dal quale nasce tutta la mia orchestrazione. Quindi questa è la prima cosa che ho detto ai produttori con cui ho avuto il piacere di collaborare: ho un piano. 13:13, è tutto per questa prima parte di Effetto Giorno, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, andremo a Calais con l'inviato di Radio 24 alla frontiera fisica della Brexit, dalla mezzanotte di oggi diventerà cosa fatta, cercheremo di capire cosa cambia per i passeggeri in transito da quella frontiera, e poi reportage dal quartiere cinese di Milano nei giorni del coronavirus. 349-238-6666 per i vostri messaggi, siamo anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Effetto Giorno. Primi due casi di coronavirus confermati anche in Italia. Il governo intanto decide lo stato di emergenza. Crescita brusca frenata del PIL italiano nel quarto trimestre del 2019, secondo l'Istat è sceso dello 0,3%, peggio delle attese. Banca Popolare di Bari, arrestati l'ex presidente Jacobini e il figlio del condirettore, interdetto De Bustis, le accuse falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza. Brexit, dalla mezzanotte il divorzio tra Europa e Gran Bretagna diventa un fatto. Cosa cambierà alla frontiera fisica, quella di Calais? Ve lo raccontiamo tra poco con il nostro inviato. 13 e 15 minuti, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizio, cari ascoltatori, ben ritrovati. Dunque, quelli che avete appena sentito sono i titoli della giornata di oggi, tra i quali alla mezzanotte di oggi la notizia è che la Brexit diventa un fatto concreto. E con noi in collegamento da Calais, l'inviato di Radio 24, Sergio Nava. Ciao Sergio, buongiorno. Ciao Alessio. Allora, abbiamo raccontato, così riannodo un po' i fili delle ultime ore, insomma, quello che potrebbe cambiare, non molto a dire la verità, nei prossimi mesi per gli italiani che sono già in Gran Bretagna, per i turisti che vorranno andare a partire dalla mezzanotte di domani in Gran Bretagna. Si potrà andare con la carta d'identità, almeno per i primi mesi, perché sappiamo che c'è un periodo ancora di transizione. Sergio, tu sei a Calais, che è la frontiera fisica proprio, a cui insomma si arriva dalla Francia per andare poi in Gran Bretagna, da tutte le altre parti d'Europa. Cominciamo, intanto un flash, cioè, sei solo o sei circondato da, come dire, da attenzione, da interesse su questa questione? Perché insomma lì Calais sappiamo appunto è nevralgico, però poi sappiamo anche che da domani in pratica non cambia moltissimo. Sì, guarda Alessio, io ho passato praticamente l'intera mattinata al porto, dove tra l'altro è arrivato in visita anche il ministro dell'interno francese Castaner, proprio per fare... C'è un problema con il collegamento con l'inviato Sergio Nava, lo recuperiamo subito naturalmente. Allora, visto che stamattina Sergio ha fatto un'intervista, ha sentito il presidente del porto, presidente del porto di Calais, sentiamo l'intervista nella quale appunto si racconta come e cosa cambierà nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Sentiamo. Ma écoutez, d'abord il faut dire che nous sommes enfin libéré d'une attente qui dure depuis 2016. Bisogna dire che noi ci siamo finalmente liberati di un'attesa che è durata anni. Abbiamo sempre pensato che sarebbe stata una hard Brexit ed è possibile che sia ancora così. Insomma, vedremo. Sinon pour le port, non rien ne change. Demain ce sera pareil puisque une année de l'anno scorso è stato un anno difficile. Oggi finalmente sappiamo cosa succederà. Per il porto non cambia niente. Domani sarà lo stesso giorno di oggi. Abbiamo ancora davanti un anno per l'applicazione della Brexit in base alle trattative che si faranno tra l'Europa e il Regno Unito. Bien au contraire. Depuis un an nous avons. Io vorrei demistificare la Brexit. Non significa il caos dei trasporti, anzi è il contrario. La sola condizione a cui dobbiamo lavorare è che bisogna creare delle dichiarazioni immateriali, digitali per i trasportatori. Se sarà così non ci sarà nessuna ricaduta e il traffico sarà come oggi. Ci sarà un codice, si arriva, si verifica e si passa via, senza problemi. Code, bar, clac, enregistré, parti. E questo era il presidente del porto di Calais, Messier Puissesso. Sergio Nava, ti abbiamo recuperato nel frattempo. Vogliamo, diciamo, distinguere il caso e cominciare, prima di parlare delle merci, il traffico passeggeri. Che cosa accade per i passeggeri? Allora, innanzitutto premettiamo, ben ritrovati, premettiamo che qui da Calais passano ogni anno circa 9 milioni di passeggeri, una cifra decisamente alta. Cosa accade? Quest'anno nulla, come detto, presentatevi con la vostra carta d'identità, presentatevi col vostro passaporto, è tutto come prima. Il problema, parlando con Jean-Marc Puissesso, che avete appena ascoltato, in un'altra parte dell'intervista, lui ponevamo assieme il problema di un possibile ESTA. Allora, tra le varie ipotesi che sono emerse nel corso degli ultimi mesi, c'è che il turista europeo che va in Gran Bretagna possa dover compilare una dichiarazione telematica, un ESTA, così come accade per gli Stati Uniti, tre giorni prima, insomma non bisogna ovviamente andare farlo con grande anticipo. In questo caso, lui diceva, in questo caso qualche problemino in più alla frontiera potrebbe porsi rispetto al semplice arrivo, mostro il passaporto e passo. Perché se c'è alla base la necessità di dover comunque avvertire le autorità britanniche che stiamo per compiere un viaggio in Gran Bretagna, questo non lo sappiamo ancora, siamo nel campo dell'ipotesi, attenzione. Allora, mi ha guardato, ha spalancato gli occhi e ha detto, qui forse rispetto alle merci, lui sulle merci era molto più tranquillo come avete ascoltato, qualche problema potrebbe porsi effettivamente, ma ancora siamo nel campo dell'ipotesi. Invece per quanto riguarda le merci, il presidente del porto è stato abbastanza chiaro, ha spiegato che diciamo non dovrebbero esserci grossi problemi, però bisognerà mettere in piedi un piccolo sistema digitale, se ho capito bene Sergio. Sì, sostanzialmente le ditte di autotrasporto che organizzano viaggi via mare per Dover, quello che devono fare sostanzialmente è anche qui telematicamente compilare tutta una serie di procedure formali, doganali, prima che il camion parta, in modo che quando il camion arriva è già stato segnalato cosa trasporta, da dove, eccetera, e quindi... questa è la visione ottimistica, quella che aveva Jean-Marc Puissesso, passa come adesso, anche se lui stesso ha detto non tutti lo faranno, quindi chi non lo fa dovrà chiaramente fermarsi qui, venire ispezionato, compilare qui tutta la parte diciamo burocratica, quindi perdere del tempo e poi ripartire. E hanno già predisposto, anche perché l'anno prossimo ci sarà il nuovo porto di Calais, su cui sono stati investiti oltre 800 milioni di euro, hanno già predisposto qui a Calais delle aree proprio dedicate a tutti coloro, a tutti quegli autotrasportatori che non avranno compilato in precedenza le pratiche. Il problema potrebbe porsi a Dover, perché il porto di Dover è molto più piccolo, attenzione, Dover è schiacciata tra le scogliere e il mare, per cui là potrebbero quindi eventuali lungaggini potrebbero creare dei problemi lì proprio per lo spazio fisico che c'è a disposizione. Sergio Nava, tu sei a Calais, naturalmente lato francese, sulla costa francese, il tuo sguardo, per quanto diciamo acuto e arguto, non potrà arrivare fino a Londra stasera diciamo direttamente, no? Però siccome sei il nostro uomo Brexit, perché sei la voce narrante di Radio 24, cosa accade stasera a Londra? Perché c'è un countdown, insomma, ci sarà una ufficialità. Allora, diciamo che già nel corso della giornata il gabinetto Johnson si trasferirà, anzi si è già trasferito a Sunderland, c'è una riunione del Consiglio dei Ministri britannico a Sunderland, che è stata la prima città nel referendum del 2016 a dichiarare la vittoria del Leave, e quindi è un modo anche per celebrare il nord-est inglese, quel nord-est inglese che è stato alla base di quella vittoria dell'uscita dall'Unione Europea. Stasera alle 22 ora locale, alle 23 in Italia, Boris Johnson parlerà alla nazione, quello che dirà sostanzialmente che si tratta di un nuovo inizio e cercherà di lasciarsi dietro le divisioni che hanno spaccato letteralmente a metà il paese negli ultimi 3 anni e mezzo. Ci sarà una party, una festa nella piazza del Parlamento a Westminster dei Brexiteer più estremi come Nigel Farage, che ha organizzato questa festa, mentre a livello ufficiale, a parte lo sventolare di bandiere britanniche della Union Jack sul Parlamento, non ci sarà. Ci sarà solo un countdown proiettato sul palazzo di Downing Street, questo sì, che marcherà l'ultima ora, diciamo, dell'appartenenza britannica all'Unione Europea e dell'inizio insomma di questa nuova indipendenza britannica. Però grandi feste non ci sono. Perché? Perché il governo ha preferito mantenere un basso profilo, esultare, esagerare i festeggiamenti sarebbe stato un po' un pugno in faccia a quella metà del paese che Brexit non vuole, e quindi diventa difficile sanare i contrasti praticamente esaltando l'altra metà. Va bene, staremo a vedere anche da questo punto di vista. Intanto grazie a te Sergio Nava, buon lavoro lì a Calais. Le 13:24 dalla Francia, dalla frontiera con la Gran Bretagna, rientriamo in Italia e concentriamo la nostra attenzione su un tema macro che è quello del coronavirus, ma declinato in un quartiere di Milano, la Chinatown milanese, che è il quartiere di Via Paolo Sarpi. La nostra Cristina Carpinelli è andata a vedere come si vive lì in tempi di psicosi da coronavirus. Poche persone per strada e nei ristoranti. Via Paolo Sarpi a Milano è una delle Chinatown più antiche e popolose d'Europa e paga il prezzo della paura del coronavirus. Spiegano i ristoratori che c'è stato un calo del lavoro dal 30 al 50%. Chi abita qua sa che non è vero, perché anche noi abitiamo in Italia. Cioè non è che siamo... anche noi abbiamo paura comunque. Quindi uno per tornare qua penso che faranno 1000 controlli prima di entrare. Anche qui nel quartiere è calata la gente che va a mangiare nei ristoranti cinesi. Questo si vede, anche se non sono del quartiere, perché ci passo ogni tanto a mangiare e si vede che è calata la gente. Soprattutto nei ristoranti, non dico cinesi ma anche asiatici, secondo me in generale sì. Sono diminuiti i clienti nel ristorante? Sì, questo sì. Sì, anche strada poca gente. Il dato è palpabile, le strade sono quasi vuote, nessuna fila davanti al negozietto dei ravioli da sporto, nessuna coda davanti al piccolo ristorantino sempre pieno. Per abbattere i pregiudizi e sconfiggere la paura, alcuni assessori milanesi e rappresentanti di Confcommercio cinesi e italiani hanno pranzato assieme oggi in un ristorante cinese, gesti di distensione per spegnere la paura che, alimentata dall'ignoranza, spesso genera mostruosità, come ci raccontano questi ragazzi. Perché ad esempio è capitato alla mia amica che è stata insultata da un gruppo di ragazzi, addirittura le hanno detto andatevi da questo paese, portatore di virus. Comunque la mia amica vive qui da 20 anni, quindi... Cristina, cioè... Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. :13:26. Allora, adesso una piccola storia, che è quella di Carolina Picchio, che aveva 14 anni quando nel gennaio del 2013 si tolse la vita dopo essere stata vittima di bullismo. E qualcuno forse si ricorderà di questa storia perché la legge sul cyberbullismo approvata nel 2017 fu dedicata proprio a lei. Ad anni di distanza noi siamo tornati con Anna Marino a Novara, la città di Carolina, per parlare col padre, per capire che cosa ne è della applicazione reale della legge sul cyberbullismo. È un reportage che andrà in onda sabato mattina su Radio 24 alle 8:15. Sentiamo un'anticipazione. Essendo stata Carolina la prima vittima acclarata di cyberbullismo, le sue parole sono diventate un po' il simbolo, l'icona di questo fenomeno. Le parole fanno più male delle botte. Queste sono le parole dell'ultimo messaggio scritto da Carolina, che papà Paolo Picchio ripete in ogni scuola e in ogni oratorio, a genitori e insegnanti, perché non si verifichi mai più quello che è successo a sua figlia, la ragazza di Novara, che nel 2013 è arrivata al suicidio per un fenomeno di cyberbullismo sulla rete. E per questo è nata la Fondazione Carolina, che si avvale della rete dei professionisti di Pepita Onlus, attiva in tutta Italia. E noi siamo andati proprio a Novara, dove sempre grazie a Carolina è germogliato il primo testo della legge di contrasto al fenomeno, ora insabbiata più di 2 anni dal varo, in attesa di essere compiuta, per scoprire le radici e il perché di questo stop e come si può fare prevenzione. Elena Ferrara era la sua insegnante di musica alle medie e da senatrice fu la prima firmataria della legge dedicata a Carolina. Era stata mia alunna per 3 anni, fino a poco prima, insomma, del momento in cui ha deciso quel gesto estremo. Quindi io come ex insegnante mi sono sentita responsabile di questo, cioè di una mancata educazione. E dopo la scomparsa della ragazza nell'oratorio San Martino della città di Novara, che frequentavano alcuni suoi amici coetanei, si sono moltiplicate le iniziative per informare e formare, soprattutto sulla possibilità di chiedere l'oscuramento dei contenuti, che può fare lo stesso minore, anche da solo nella sua cameretta. Importante, sottolinea proprio un animatore ed educatore dell'oratorio San Martino, Federico Leva. Permette ai ragazzi, in pieno anonimato quasi, di liberarsi di questa cosa che li opprime, insomma, in qualche modo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:28, Effetto Giorno fa una pausa, torna tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per commentare le notizie di oggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. È venerdì, una buona notizia è quella che riguarda i mezzi pubblici a Brescia, ve la raccontiamo tra poco. Effetto Giorno. Primi 2 casi di coronavirus confermati anche in Italia, il governo decide lo stato di emergenza. Crescita brusca frenata del PIL italiano nel quarto trimestre del 2019, secondo l'Istat è sceso dello 0,3%. Banca Popolare di Bari, arrestati l'ex presidente Jacobini, il figlio del condirettore, interdetto De Bustis, le accuse falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza. Brescia, in arrivo una novità per il traffico, semafori regolati per facilitare il passaggio dei mezzi pubblici. Come funzionerà? Ne parliamo tra poco con l'assessore alla mobilità. :13:34, ben ritrovati cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, dove è in corso tra l'altro la diretta streaming. Allora, c'è un ascoltatore, leggo solo questo messaggio perché non abbiamo tantissimo tempo, Roberto, che dice: ho chiamato per denunciare il comportamento della nostra ambasciata a Pechino e del ministro degli esteri circa mio figlio bloccato a Kunming in Cina. Credo che si riferisca all'allarme per il coronavirus. Ho chiamato Radio 24, ovviamente non mi avete richiamato. Facciamo così, caro ascoltatore, se c'è un problema noi cerchiamo di fare la nostra parte. Scrivici una mail ragionata a effettogiorno@radio24.it, che tra l'altro vale anche per gli altri ascoltatori che vogliono dialogare in questo modo. Abbiamo detto dai titoli, avete sentito oggi, brusca frenata del PIL italiano, non ci voleva, a questo è dedicato il punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. L'Istat si affretta a dire che è una stima preliminare, quindi soggetta a possibili correzioni, ma l'indicazione sul PIL del quarto trimestre dell'anno scorso è una doccia fredda. La previsione è quella di una contrazione pari a -0,3%. Gli analisti prevedevano qualcosa di meglio dopo quattro trimestri di crescita positiva, seppur flebile e ferma a un +0,1%. Avrà un valore anche il fatto che negli ultimi tre mesi del 2019 i giorni lavorativi erano due meno rispetto al trimestre precedente. Ciò detto, la proiezione sul 2020 scende da +0,5% a 0, o forse a 0,2% in più. La crescita di mezzo punto era quella prevista nei documenti ufficiali di finanza pubblica ed è il dato su cui è stata congegnata la complicata manovra di fine anno. Il rischio è dunque che questa nuova situazione abbia già bruciato il dividendo dello spread, che, come ha detto lo stesso ministro Roberto Gualtieri, nel biennio poteva valere un paio di miliardi. Il vero rischio però è che questa nuova condizione economica diventi un ulteriore vincolo nella già difficile trattativa per la fase 2 del governo Conte, che per mettere insieme le tante istanze del suo rissoso pentapartito, di tutto ha bisogno tranne che di meno risorse. Allora è venerdì, quindi cerchiamo di lasciarci con una buona notizia, una bella storia che viene da Brescia, è un si può fare e vedremo, cari ascoltatori, se vi convincerà, se convincerà a tutti, perché ci sono degli aspetti anche su cui riflettere. Parliamo di mezzi pubblici, che i mezzi pubblici, l'autobus insomma, nella maggior parte delle città sono accusati di essere pochi, lenti, quindi non efficaci, non un'alternativa valida all'automobile, automobili che inquinano, che non possono entrare nei centri urbani, lo sappiamo. A Brescia si sta pensando ad una app, intanto per tenere aggiornate le persone in tempo reale sui tempi reali di percorrenza degli autobus, un'app che c'è anche in altre città, anche se spesso non funziona a dovere, dobbiamo dirlo, e soprattutto un sistema di regolazione dei semafori. Ne parliamo con l'assessore alla mobilità di Brescia, Federico Manzoni, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Allora, un sistema di monitoraggio e di regolazione dei semafori che dovrebbe lasciare la precedenza, se abbiamo capito bene, ai mezzi pubblici, in qualche modo accorciando anche e rendendo certi i tempi di percorrenza degli autobus. Allora, assessore, non siamo naturalmente a un corso di ingegneria dei trasporti, però provi a spiegarci come dovrebbe funzionare questo sistema. Ma guarda, intanto non sono neanch'io ingegnere dei trasporti, per cui ben volentieri vedo di trasmettere quanto è un fronte di lavoro sul quale siamo impegnati. Uno dei temi, diciamo, che secondo noi fa la differenza in termini di qualità del servizio del trasporto pubblico è la regolarità del servizio, quindi la regolarità è evidentemente anche la sua competitività in termini di tempi di percorrenza rispetto al traffico privato. Uno degli elementi evidentemente che costituisce un'incognita è il tema degli attraversamenti semaforizzati, soprattutto evidentemente laddove non abbiamo delle situazioni che consentano di tenere i flussi del trasporto pubblico separati da quelli del trasporto privato, perché laddove abbiamo è quasi sempre così, questo evidentemente diventa un problema. Per cui uno dei filoni sul quale stiamo lavorando è quello di far dialogare questo nuovo sistema di monitoraggio dei bus con la nostra centrale semaforica. La soluzione riguarderebbe quindi gli attraversamenti più congestionati, quelli dove magari i tempi di attesa per aspettare il verde sono di diverse decine di secondi, che magari cumulati rispetto all'itinerario diventano diversi minuti nell'arco di una corsa, per rendere, diciamo, questo servizio più rapido. Ecco, ma in che modo funzionerà questa cosa a questi semafori, in questi incroci particolarmente trafficati? Cioè, facciamo un esempio, l'autobus sta per arrivare, sta per scattare il rosso, ma se l'autobus è a pochi metri dialoga con la centralina e si prolunga la durata del verde? Questa è solo un'ipotesi. ipotesi, così? Sì, sì, fondamentalmente è un sistema di spire nell'asfalto che rileva l'arrivo dell'autobus e quindi con un piccolo, diciamo, calcolo di tempi di percorrenza fa capire quando è il momento di far scattare il verde piuttosto che no. Questo chiaramente è possibile perché il peso dell'autobus è diverso da quello di un'auto privata e quindi garantisce evidentemente un certo tipo di velocità e di rapidità. Ecco. Quindi, assessore, scusi se la interrompo, per restare su questo punto, è evidente, mi metto già nei panni dell'automobilista, perché di automobilisti ce ne sono naturalmente molti, tanti quanti sono i passeggeri degli autobus, forse di più, ma insomma è un punto di vista anche quello, diranno, beh, allora a me scatterà il rosso prima, avremo meno tempo per passare col verde, questo potrebbe succedere, anche se bisogna dire che il rallentamento dell'autobus che si ferma al semaforo e poi la ripartenza genera traffico, voi in questo modo lo fate scorrere, quindi potrebbe anche esserci già un pareggio, però è vero che saranno più corti i tempi dei verdi delle auto, quindi che transitano nell'altra direzione in questi casi? No, sarà un po' più dinamico il ciclo, nel senso che anziché avere un ciclo fisso che indipendentemente dal fatto che ci siano auto o autobus fermi a semaforo si attiva o non si attiva, in realtà si attiva al bisogno, all'occorrenza, per cui evita di avere cicli di semaforo rosso quando non serve e invece li consente di avere verdi quando ce n'è la reale necessità. Quindi questo tutto sommato è un gioco che complessivamente dovrebbe essere a somma zero in termini di tempi per il traffico privato. Dopodiché è chiaro che dovendo dare una priorità, noi la priorità la diamo. È chiaro, questo è il segnale politico che date, questo secondo, dal mio punto di vista, è un segnale corretto, perché si tratta di favorire i mezzi pubblici, quindi sappiamo che l'auto non può arrivare da tutte le parti, le auto inquinano in proporzione di più, quindi da questo punto di vista è chiaro il messaggio. Senta, un'ultima cosa prima di salutarci, assessore Manzoni, perché so che a Brescia, come anche in altri comuni, ma a Brescia in particolare, i semafori stanno già facendo discutere per un'altra questione, che è quella delle telecamere piazzate che fanno foto, scattano foto e sanzionano tutte le irregolarità. In altre città è successo che ci si lamentasse perché sono forse troppe le irregolarità sanzionate. Faccio l'esempio, lo scooter che salta la fila e va oltre la linea, però non commette una reale infrazione, non passa col rosso, o l'auto che rallenta quando arriva all'arancione, però va un metro oltre la linea e viene sanzionata. Sta accadendo questo a Brescia? Guardi, devo dirle che i nostri sistemi di rilevazione delle infrazioni fondamentalmente sanzionano due condotte, l'eccesso di velocità e il passaggio col rosso al semaforo, e quindi in questo momento si sanzionano, diciamo, canoni e tipologie di infrazione del codice della strada molto basilari e che tutti possono evidentemente capire nella loro pericolosità, perché l'eccesso di velocità evidentemente soprattutto nelle aree urbane è un problema, perché nelle aree urbane abbiamo un'elevata concentrazione di pedoni, abbiamo un'elevata concentrazione di biciclette, fra un po' avremo in strada anche i monopattini, perché comunque c'è un trend anche di acquisto di nuovi mezzi, e quindi quanto più siamo in grado di far tenere agli automobilisti una velocità moderata nell'area urbana, tanto più ne guadagna. Quindi sanzionate l'alta velocità al semaforo, ma anche il passaggio col rosso, quindi soltanto queste due cose, non diciamo la linea calpestata semplicemente dalla ruota dell'automobile. Nel nostro caso non è così, ecco. Va bene. Dopodiché lo sforzo evidentemente è quello di lavorare sempre di più per la sicurezza stradale, quindi il lavorare per la sicurezza stradale non è solo sanzionare a valle, ma lavorare anche molto a monte, quindi costruire anche delle strade che favoriscano velocità minori, che favoriscano una migliore sicurezza dei pedoni e una migliore sicurezza delle biciclette. Sempre. Ecco. Grazie assessore Manzoni di Brescia, grazie per essere stato con noi, buona giornata. minuti, cosa ci attende in questo weekend sportivo? Ciao Carlo. Ciao Alessio. Beh, cosa ci attende lo scopriremo. Intanto vediamo cosa ci attende dal mercato, che chiude stasera, esatto, alle 20. Adesso sì. E questo è importante. Ci sono ancora trattative in ballo e in corso. I famosi colpi dell'ultima ora esistono ancora. I colpi dell'ultima ora, beh sì, sono abbastanza una leggenda, però sì, trattative in corso ce ne sono ancora. E la domanda è, ma facendo i conti di prima elementare, la Juventus ha 3 punti in più dell'Inter, ma in fondo è Emre Can in meno, perché è andato al Borussia Dortmund per 30 milioni, cioè tanti soldi. L'Inter ha 3 punti in meno, però ha 3 giocatori importanti, Eriksen, Young e Moses in più. Beh, messa distanza così, colmata, 349-238-6666, ditelocelo attraverso WhatsApp. Poi certamente nel weekend, oltre al calcio, avremo l'inizio delle 6 nazioni di rugby, e con una partita proibitiva, ma questa non è una novità, contro il Galles, perché il bilancio è sconfortante: l'Italia non vince le Sei Nazioni da 7 anni, e qualche domanda bisogna pur farsela. Poi faremo un collegamento con l'America, perché c'è Simone Sandri che a Los Angeles, per il derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers, che è stato rinviato l'altro giorno, ma è anche la settimana del Super Bowl che si gioca domenica. Grazie Carlo, allora appuntamento con te dopo il giro delle 14 naturalmente, per questa chiusura del calciomercato, e vedremo se arriveranno le notizie dell'ultima ora. Noi facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco con Giulia Crivelli e i giornali internazionali.